scortiene, sono un chilo fa. Vabbè, ma quello che c'è Mario Marzo che rende. Comunque Mario, forse un anno quello che stava parlando quel tipo in officina l'altro giorno lì, quello che adesso faccio gli attivi, già l'hai capito? Già ho capito, sì. Ho capito perfettamente, guarda che io lo conosco prima di te, io l'ho conosciuto tanti anni fa. Della bici si può andare in macchina conmigo. Sì, finge l'hai fatto. Dopo? No, la bici che non lo sto usando, vediamo un po'. Però la differenza è un valvolare, quello mi stava dicendo. Ma ecco. Avanti. Buonasera Mario, i nomi da rilocchi in macchina non passa nessuno, pappa. Avanti Natalino, buonasera a tutti, e a te Mario, Salvatore, Doppio Rum, Falchetto e non so chi ci sia più, dai. Una cosa pazzesca, io che sono circa poco meno di 40 anni in radio, non ricordo un periodo così negativo, mai, in 40 anni sicuramente il periodo peggiore. E altro poi, non aspettate che altro, quello della propagazione, voi, andiamo a Turia, sempre quello, poi ogni 11 anni, non è così, sono il ciclo dopo 11 anni, addirittura dice, quest'anno c'è una cosa inspiegabile, non si capisce per quale motivo, per quale movimento, per quale flusso di qualunque altra cosa ci sia stata questa modifica. Non ci sono più esplosioni sulla crosta solare. Sono molto inferiori, ma di gran lunga inferiori rispetto ai minimi conosciuti da quando si fanno degli studi.